Buongiorno ai nostri ascoltatori, oggi siamo qui con Elena Cristiani, direttrice artistica di Zola Auditorium, che è qui insomma per presentarci un pochino quello che è il programma di questa rassegna e di quelli che sono diciamo un po' più gli eventi principali. Buongiorno a tutti, quest'anno come negli anni precedenti abbiamo deciso di suddividere la rassegna in 5 parti principali. Ci sarà una parte dedicata agli appuntamenti per ridere, quindi dedicata agli appuntamenti comici, dove troviamo tra gli artisti Chiara Becchi Manzi, che sta facendo una carriera incredibile dopo Comedy Central, quindi è veramente sulla cresta dell'onda. Troviamo Al cospetto di Gaber con Sergio Sgrilli, Metafisica dell'amore con Roberta Lidia De Stefano. Poi ci spostiamo nella rassegna per pensare, quindi una rassegna di prosa, dove andiamo a toccare quelli che sono insomma i temi un po' più calienti il nostro interesse. Lavoriamo sul tema del femminile con due spettacoli in particolare, 16 donna prodotto dalla nostra compagnia e La luce intorno, di una produzione del Teatro dell'Argine di San Lazzaro. Inoltre, sempre nella stagione per pensare, troviamo anche lo spettacolo dal titolo Sandro, dedicato a Sandro Pertini, interpretato da Andrea Santonastaso. E oltre alle due rassegne principali, che sono quelle di ridere e di pensare, abbiamo altre tre rassegne che si svilupperanno durante la stagione teatrale, che saranno una stagione dedicata ai bambini, quindi 6 appuntamenti per diverse fasce d'età, una stagione dedicata alla musica, che sono 4 appuntamenti, tra cui appunto ci sarà anche Cisco come nomi principali, e una stagione Paraldialatto, quindi 6 appuntamenti dedicati al dialetto bolognese. Tutte queste collaborazioni diciamo che rendono questa rassegna molto particolare e soprattutto molto ampia. Come sono nate queste collaborazioni? Come appunto è stata strutturata questa rassegna? Allora, noi normalmente quando andiamo a scegliere gli artisti da inserire nel nostro cartellone abbiamo alcune linee guida che vogliamo tenere come direzione artistica. Tra queste c'è valorizzare gli artisti del territorio, quindi cercare soprattutto artisti che sono su Bologna, comunque con paesani, oppure artisti emergenti, quindi del panorama anche milanese o romano, però che secondo noi meritano una vetrina di visibilità. Può essere per esempio quest'anno lo spettacolo di Frivola, che è nella stagione comedy ed è interpretato da Lucia Raffaella Mariani. Un'altra caratteristica che stiamo ricercando specialmente quest'ultimo anno è spettacoli in cui riusciamo a mischiare i due linguaggi di musica e di teatro insieme, quindi dove c'è musica dal vivo anche negli spettacoli di prosa, ed è il motivo per cui è stato scelto Sergio Sgrilli per Il cospetto di Gaber o i titoli di questo calibro. Un'altra domanda è soprattutto quando e dove si comincia? Allora si inizia qui in Piazza della Repubblica 1 a Zola Predosa. Iniziamo con la stagione bambini e ragazzi, quindi apriamo per i più piccoli il 12 ottobre. Sarà ospite Nata Teatro con uno spettacolo che si chiama Acqua Matta sullo spreco dell'acqua, ma fatto con i burattini, molto bello. Concluderà a fine marzo, quindi insomma gli appuntamenti sono 28, sono tanti. Vi aspettiamo. Eventualmente per informazioni o prenotazioni si può sempre andare sul sito, ovviamente zolauditorium.it, oppure ci trovate su Facebook, Instagram, insomma tutti i social, siamo molto attivi. Perfetto, io ringrazio molto Elena e vi auguro una buona rassegna. Grazie mille.